Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. Allora, la vacanza è rilassante solo quando fila tutto liscio. Chi ha avuto la spiacevole esperienza di fare i conti con un contrattempo, con qualche disavventura durante le ferie, sa bene quanto siano stressanti gli imprevisti quando il tempo dovrebbe essere dedicato solo ed esclusivamente al riposo. E questo è un preambolo scontato. Accanto a questo ci metto il titolo di un articolo apparso sul Venerdì di Repubblica il 25 giugno. Grecia, l'estate nera della crisi, turisti attirati dagli sconti, spaventati dagli scontri, tariffe in calo, hotel in vendita, prenotazioni cancellate, la crisi di Atene ha messo nei guai anche la stagione turistica e se molti italiani hanno fiutato l'affare, gli albergatori dell'Egeo adesso temono il peggio. Oggi c'è un nuovo sciopero generale di 24 ore in Grecia, lo avete sentito anche nel corso del nostro giornale radio, è il sesto dall'inizio della crisi, sta paralizzando quel paese che protesta contro la riforma pensionistica che è stata approvata ieri dal Parlamento. I greci, la maggior parte dei quali secondo i sondaggi sono pessimisti sull'evoluzione di questa crisi, stamattina, come ricordava Laura Bettini, si sono risvegliati in mezzo ad un blackout informativo perché allo sciopero hanno aderito anche i giornalisti, non per la legge bavaglio come faremo noi domani di Radio 24, ma per altre motivazioni. E c'è anche una paralisi quasi totale dei trasporti aerei, marittimi e terrestri, ferroviari e urbani, e sono inoltre chiusi ospedali, naturalmente salvo emergenze, uffici pubblici, dogane, tribunali, banche, esercizi commerciali. E allora, cosa fanno gli italiani che si trovano là già in vacanza? E soprattutto, come deve muoversi chi la sta pianificando ora e che guardava ad una bella isola greca come meta delle proprie vacanze, ma magari di fronte a tutto questo un po' si spaventa? Allora, abbiamo dei disordini, dei disagi della popolazione per determinati motivi, ma non è un paese in guerra, quindi intanto diamo anche la giusta misura a tutte le notizie che noi stessi giornalisti scriviamo. Detto questo, se però qualcuno si dovesse preoccupare per queste vicende, come deve comportarsi, come deve muoversi, perché ci risulta che comunque magari chi aveva pensato alla Grecia sta cancellando questa vacanza proprio intimorito da queste notizie che raccontiamo. Allora noi stamattina affrontiamo questo argomento con i nostri ospiti, guardando magari anche ad altri paesi che, di cui non facciamo altro che parlare per la questione della crisi economica e che lo stesso sono generalmente magari mete gettonatissime da parte delle famiglie italiane, che quest'anno per la crisi economica rischiano di non esserlo. Uno su tutti è la Spagna. E allora intanto saluto Roberto Corbella, presidente di ASTOI, l'associazione dei tour operator italiani. Presidente, ormai lei potrebbe fare la trasmissione al posto mio, la stiamo chiamando spessissimo ultimamente. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno e bentornato naturalmente. Poi saluto Valerio Chiaronzi, marketing manager di Europe Assistance per l'Italia, quindi parleremo anche delle tutele assicurative, non solo per chi va in posti dove ci sono alcuni disordini come per esempio la Grecia, ma anche insomma come assicurarsi prima di partire. Daremo anche un vademecum questa mattina a tutte le persone che stanno pianificando la propria vacanza in qualunque località e magari non ha pensato anche a delle formule di protezione per sé e per la propria famiglia. Chiaronzi, benvenuto a Salva Danaio, buongiorno. Buongiorno a tutti. E poi da Ibiza saluto Fabio Cannavale, fondatore di volagratis.it, e allora lui ci aiuterà a fare un po' sarà il nostro inviato in Spagna questa mattina per raccontarci là che aria tira. Credo che ci sia dal punto di vista meteorologico la solita aria eccezionale. Cannavale, buongiorno, e poi buongiorno ci sia anche comunque una certa tranquillità, magari diciamolo subito. Buongiorno a tutti. No, qui a Ibiza la situazione è tranquillissima e la cittadina è piena, l'isola è piena, quindi non si vede molta crisi. Diciamo che c'è stato proprio un disinteresse generale rispetto alla crisi di cui stiamo tanto enfatizzando molti aspetti, ma dal punto di vista turistico per fortuna, anzi che magari la Spagna può essere supportata anche da questo comparto che marcia sempre molto bene. E comunque, questo è un argomento che vi interessa stamattina, allora raccontateci un po' le vostre considerazioni all'800240024, oppure scriveteci al 349-238-6666. Ecco, proprio soprattutto se magari è la Grecia che vi interessa, quali sono un po' le perplessità che vi hanno così contagiato, sentendo raccontare un po' di tutto, anche perché lo stiamo facendo da mesi su questo paese, per cui siete preoccupati o meno, oppure partirete senza alcuna preoccupazione. La borsa stamattina è molto positiva e consolida i rialzi di ieri, che sono seguiti alle indicazioni che sono arrivate sui possibili risultati dei stress test sulle banche che verranno divulgati verso la fine di luglio, ma pare insomma che le banche godano di ottima salute in Europa. E su questa prospettiva ieri borse in forte rialzo nel vecchio continente, stamattina nuovo buon rialzo per i listini europei. Parigi più 0,9, Francoforte più 0,3, un po' più modesta Francoforte, Londra in rialzo di oltre un punto, Milano più 0,8%, Corre Mediaset più 3,76%, UbiBanca più 3,33%, Bulgari più 2,42%, in calo invece abbiamo Prismian che perde 1,5% e Pirelli che perde 1 punto. Euro su dollaro a 1,2647, oggi si riunisce la Banca Centrale Europea, conosceremo le decisioni sui tassi di interesse che dovrebbero essere mantenuti però invariati, ma chissà che qualcosa non cambi entro poco tempo, perché potrebbe essere venuto il momento di cominciare a rialzare i tassi di interesse nell'eurozona, non lo so. Comunque noi oggi parliamo di altro, parliamo di viaggi e sentiamo un po' la nostra scheda. Con l'estate cresce il desiderio di vacanza, per cui sono in molti quelli che si rivolgono alle agenzie di viaggi per l'acquisto di pacchetti su misura organizzati da tour operator specializzati. In questi casi, di norma si sottoscrive, contestualmente all'acquisto del viaggio, un'assicurazione o polizza assicurativa che dovrebbe farci dormire sonni tranquilli se per un qualche motivo fossimo impediti a partire, ma anche se ci dovessimo trovare a fronteggiare quei piccoli, grandi imprevisti che possono rovinarci la serenità del viaggio. Di solito sono 4 le tutele fondamentali previste dalle compagnie dei tour operator in questo caso. Sicuramente è compresa l'assistenza personale, qualora ci si dovesse ritrovare in una situazione difficile a causa di un infortunio o malattie impreviste. Le spese mediche, che sono coperte entro un tetto massimo e se riferite ad interventi urgenti non posticipabili. L'assistenza in caso di smarrimento o furto del bagaglio. E infine, l'annullamento della vacanza a causa di un lutto in famiglia, malattia, infortunio proprio o del proprio compagno di viaggio. Ma se apparteniamo alla categoria dei viaggiatori fai da te? In questo caso il discorso si fa leggermente più complicato, anche perché bisogna tenere conto delle mete che si visiteranno e calibrare in base ad esse le coperture assicurative da acquistare. Il consiglio, infatti, agenzia o non agenzia, è sempre quello di comprare una polizza commisurata alle proprie esigenze, perché partire per le vacanze non ci provochi alcuno stress. E allora, per chi si sente già un po' stressato perché ha organizzato le sue vacanze in direzione Grecia e sente parlare di questi disagi, di questi scioperi, insomma si è un po' spaventato, speriamo di poterlo rassicurare questa mattina. Abbiamo già degli ascoltatori pronti a fornirci la propria testimonianza. Guardate, allora, prima della chiacchierata con gli ospiti di stamattina vorrei sentire proprio Jörg da Verona. Buongiorno. Sì, buongiorno. Ho correttamente pronunciato il suo nome? No, Ior, I-O-R, mi scusi, eccoci. Sì, prego, qua, prego. Ci dica, è tornato lei dalla Grecia da poco? Sono appena tornato dalla Grecia, io vado per motivi di lavoro, ero ad Atene per dire anche. Ho trovato un'area abbastanza tranquilla, c'è stato uno sciopero generale, non so se ricordo, sabato o domenica scorsa, c'erano 150 persone, 50 bandiere rosse e si è tutto svolto in modo molto ordinato. Mi sembra che la popolazione proprio non viva questo stress che qui viene sempre rappresentato facente parte dello scioperi o della situazione greca. Beh, ci mancherebbe anche che... Ho trovato un ambiente molto... Sto parlando di Atene, ovviamente, poi ho girato un po' nei dintorni. Sì, sì, ma infatti... Molto rilassato, ecco. È chiaro che un paese non è che si possa paralizzare per mesi. Adesso, stanotte, c'è stata l'approvazione della riforma pensionistica e questo ha riturbato di nuovo un po' il clima generale, perché i sindacati si opponevano duramente. Sono le misure di austerity in termini generali che non piacciono di fronte a quello, come esattamente accade in Italia. Ogni tanto, di fronte a misure proprio particolarmente che sembrano impopolari, si parte con la manifestazione di protesta, i sindacati li portano tutti in piazza, i lavoratori, poi non è che si paralizzi il paese. Detto questo, però, della Grecia parliamo da un po' di mesi e quindi in certi frangenti la protesta è stata particolarmente accesa e ce lo ricordiamo molto bene, con disordini di piazza molto, molto importanti, e quindi per questo insomma tutto ciò ha contribuito a preoccuparci un pochino. Detto questo, grazie al nostro ascoltatore di Verona che ha voluto rassicurarci. Presidente di Astoi, Roberto Corbella, attorno da lei. Cosa succede fra i vostri associati? Come si stanno comportando le famiglie? C'è il tira e molla delle prenotazioni? Ci stanno ripensando? Oppure tutto sommato chi ha già scelto la Grecia non si tira indietro? E per quali ragioni l'ha fatto? A caccia di vacanze super scontate? Allora, intanto comincio col dire che la scheda che è stata da voi presentata è molto corretta, molto appropriata, quindi è un'ottima indicazione di consiglio per tutti coloro che vogliono viaggiare. E qua ringraziamo Gaia Romani che l'ha scritta, bene. Per quanto riguarda la Grecia, ho proprio davanti a me dei dati della Banca d'Italia che registrano gli andamenti del mercato. Allora, i primi tre mesi di quest'anno hanno denunciato una forte crescita del traffico degli italiani verso la Grecia, anche se i primi tre mesi, in gennaio-marzo, non sono certamente i mesi clou per la destinazione Grecia, la stagione importante è questa che stiamo vivendo adesso. Devo dire, le manifestazioni ci sono state, ma come ha detto anche l'ascoltatore prima, sono essenzialmente concentrate nella capitale, ad Atene, come è normale che sia, mentre invece le mete gettonate dai nostri italiani vacanzieri sono soprattutto le isole sia le più grosse, Creta e Rodi, ma anche tutte le isole minori, Santorini, Mykonos, Kos, eccetera. In queste realtà il problema per questi posti è raggiungere, in ogni caso, perché se si paralizza il traffico marittimo naturalmente diventa un po' un problema, ecco. Però nel 90% dei pacchetti turistici offerti dai nostri operatori si va con voli diretti su queste isole, quindi in partenza dagli Sky italiani, Milano, Roma, Bologna, Verona e quant'altro, e si arriva direttamente nell'isola prescelta, quindi il rischio di sciopero di altri collegamenti è abbastanza marginale. L'unico caso che ovviamente può colpire se c'è uno sciopero dei controlli del traffico aereo o di qualcosa del genere, allora, cosa che oggi sta avvenendo peraltro, se non ho capito questi male. Sono i casi, però la concezione della gente, cioè la reazione generale, abbiamo riscontrato essere abbastanza positiva. Forse è scattato anche una molla, qualcuno ha pensato di fare l'affare, cioè vado in Grecia perché quest'anno costerà meno. Ed è possibile che alcuni servizi locali, visto questa particolare attenzione degli operatori greci al comparto in questo momento di crisi, porterà ad avere delle condizioni di favore. I pacchetti erano già competitivi, sono sui livelli dell'anno scorso. La Grecia normalmente si posiziona come una meta molto competitiva, oltre ad essere molto vicina per noi e oltre ad offrire delle isole molto belle e un mare valido. Quindi noi non riscontriamo cancellazioni particolari. Qualche domanda sicuramente in più, giustamente, ma questo rientra anche nei consigli che noi stiamo dando assieme alle associazioni consumatori. Prima di partire è bene che le persone sappiano dove vanno, si documentino il più possibile. Esistono poi siti come quello della Farnesina, Viaggiare Sicuri, bravissimo, esatto, che sono costantemente aggiornati su qualsiasi forma di possibile disagio o di possibile blocco. L'ultima comunicazione peraltro proprio dal sito del Ministero degli Esteri, da www.viaggiaresicuri.it, si riferiva il 26 giugno alla situazione in Grecia e quindi insomma invitiamo anche a prendere in considerazione un esame delle informazioni del paese in cui si vuole andare attraverso appunto proprio i siti istituzionali. Allora noi ci fermiamo, quindi chiedo ancora un minutino di pazienza a Chiaronzi e Cannavale, poi vado da loro, mi interessa molto capire anche insomma la situazione spagnola, ma abbiamo capito che là è molto molto tranquilla, lo è sempre stato, ma lo è anche la Grecia. Questa mattina a Salva Danaio siamo ritornati sul tema della vacanza per fare un po' un punto della situazione su tutte quelle tutele che bisogna prendere prima di partire, anche dal punto di vista assicurativo, anche se ancora nel merito di questo punto non ci siamo entrati, ma il nostro, come dire, tema di partenza è stato il quadro greco, perché tra l'altro oggi è un po' preoccupante, c'è un nuovo sciopero generale che sta paralizzando di nuovo questa nazione e più volte ce ne sono stati, è il sesto questo dall'inizio della crisi, e quindi questo sta generando anche un pochino di preoccupazione per tutti quei turisti, la Grecia soprattutto per le famiglie italiane, una meta tradizionale molto gettonata, un po' di preoccupazione perché insomma molti dicono vabbè, è chiaro che non stiamo parlando di una guerra, sono dei disordini, delle proteste come spesso ne vediamo anche in Italia, però insomma se io ci capito in mezzo, se per due giorni tutti i negozi sono chiusi, se il ristorante dove vado magari chiude i battenti, ma insomma per tanti altri servizi la città si paralizza, cosa mi succede? Insomma chiaramente mi sfuma parte della vacanza. E allora stamattina stiamo un po' anche rassicurando tutti coloro che stanno meditando di organizzare proprio una vacanza in questo posto splendido. Da Ibiza invece Fabio Cannavale, fondatore di volagratis.it, lo abbiamo contattato per capire intanto qual è la situazione anche spagnola, un paese anche in questo caso al centro di una crisi economica molto importante, molto dirompente, e però che non sta vivendo le stesse agitazioni sociali greche. Cannavale, i prezzi intanto là come sono in questo momento? Io ho guardato il vostro sito stamattina, ho notato che avete anche dei banner lampeggianti per promuovere la Spagna, quindi meta ricercatissima dagli italiani come al solito? Sì, Allora, direi che la Spagna è in linea con le prenotazioni dell'anno scorso, sulla base delle nostre prenotazioni, quest'anno il 12% delle prenotazioni sono sulla Spagna ed è esattamente in linea col numero dell'anno scorso. Quello che sta cambiando è che si è alzata ancora la quota dei voli low cost, quest'anno il 77% delle persone che vanno in Spagna usano un volo low cost contro il 70% dell'anno scorso e questo ha fatto sì che i prezzi sono scesi. Per esempio, andare a Barcellona l'anno scorso costava in media 56 euro a tratta, cioè all'andata, e ora costa 54. Quindi significa che in qualche maniera, qualche mese fa, settimana fa, qualche timore che magari a causa della crisi il posto fosse un po' meno frequentato dai turisti c'era, quindi si è partiti con queste attività promozionali molto intense, carnavale. Ma in realtà sono stati messi più voli. Caso di Ibiza prima era un volo fatto solo da voli charter, l'anno scorso c'erano in alta stagione 5 voli al giorno, quest'anno ce ne sono 6 al giorno fatti da compagnie low cost e quindi questo fa sì che i prezzi possano essere bassi. Io ho visto per esempio un esempio adesso, andare a Ibiza la prossima settimana, stando una settimana, costa andata e ritorno, tutto incluso 70 euro. Cioè, e vengo al punto dell'assicurazione che secondo me è molto importante, noi lavoriamo sia in partnership con Europa Assistance, quindi uno può comprare un'assicurazione che costa 10 euro per esempio per questo volo da 70 euro e quindi se ha i classici casi malattie e tutto può farsi rimborsare il biglietto, oppure noi abbiamo introdotto le tariffe Volaflex fatte da noi apposta per chi vuole cambiare e con 17 euro per qualsiasi motivo, una tariffa non è un'assicurazione, uno può decidere di non partire anche all'ultimo e noi gli diamo un altro volo aereo dello stesso ammontare. Certo, questo mondo è diventato molto più flessibile rispetto al passato, d'altronde insomma gli imprevisti possono capitare a tutti, non si capisce perché molto spesso fino a qualche tempo fa c'era tutta questa rigidità da parte degli operatori del settore a non cambiare i voli, a non ridare dei buoni magari per rifarne un altro, insomma invece adesso è un mondo che è diventato molto più flessibile, come dicevo. Il tema delle assicurazioni, vado a Chiaronzi di Europa Assistance perché ancora non sono riuscita a sentirla, ci sono anche due ascoltatrici che ci vogliono fare due domande molto interessanti, chiedo ancora un attimino di pazienza ad Elisabetta da Firenze e Virginia da Varese. Chiaronzi, sono partita appunto parlando della Grecia, abbiamo toccato il tema Spagna, molto meno preoccupante del quadro greco, ma le chiedo, esistono delle polizze che proteggono da danni e disguidi, che proteggono i turisti appunto, danni e disguidi legati ad esempio a possibili disordini sociali, se qualcuno vuole andare ad ogni costo in Grecia, ammettendo che si verifica una giornata difficile, 2 o 3 giorni difficili appunto a causa di un nuovo stop del paese per tutte le motivazioni che possono risvegliarsi da qui alle prossime settimane. Ecco, contattano compagnia e chiedono eventuale copertura in questo senso. Si può fare? Ma allora, diciamo che la materia non è così facile descrivere un comportamento omogeneo di tutte le compagnie, nel senso che non abbiamo un'offerta così standardizzata, per cui bisogna entrare nel merito poi delle singole offerte delle diverse compagnie. C'è da dire che generalmente questo tipo di situazioni rientrano un po' in quelle che sono l'esclusione per quanto riguarda per esempio i prodotti di annullamento, che in genere escludono situazioni di catastrofi, diciamo, o forti disagi sociali, anche se possono poi rintracciarsi situazioni un pochino più puntuali. Questo per quanto riguarda i prodotti di annullamento. Diverso è invece avere una buona tutela quando si parte in viaggio, ovunque si vada, in termini di garanzie legate a assistenza sanitaria, rimborso spese mediche, che noi consigliamo ovviamente sempre di avere e che ovviamente in paesi dove la situazione, diciamo la temperatura sociale è un pochino più alta, possono ancora una volta essere più utili che magari in altri paesi. Secondo lei la Grecia in questo momento, anche almeno magari da richiesta che avete avuto fino a questo momento, è da considerarsi un paese dove la temperatura sociale è particolarmente alta? No, io mi associo a quanto detto dal presidente di Astoi, nel senso che non riscontriamo in questo momento particolari differenze rispetto alle stagioni passate. E invece l'estate 2010 Chiaronzi sta presentando determinate tendenze, determinati trend da parte delle persone che si assicurano con voi in relazione ai paesi scelti, alle tutele chieste? Ma allora, secondo me il trend principale, quello più importante, è proprio quello della maggiore consapevolezza di chi viaggia. c'è un trend forte che è quello proprio del tema della sicurezza in viaggio, quindi sempre più spesso viaggiatori, che siano viaggiatori fai da te, che siano provenienti da tour operator o da agenzie di viaggio, ricercano polizze di assistenza in viaggio, e questo è un trend di crescita forte che noi registriamo appunto sui dati di vendita. Registriamo crescite su base annuale, testimonianza di un trend forte, comunque di maggiore consapevolezza e maggior bisogno di protezione da parte dei viaggiatori. Virginia da Varese, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, io sono appena rientrata da Creta, sono rientrata domenica sera e vi posso dire che assolutamente lì non si percepisce nulla. Le strutture sono, la struttura dove ero io ospitava 1200 persone ed era completamente piena. Ho parlato un pochino anche con i commercianti del posto, ovviamente non ero in una città grande perché ero in un paesino piccolo, e loro dicono che loro non la percepiscono proprio la crisi. Senta Virginia, era la prima volta che lei andava in Grecia? Sì, era la prima volta. No, per capire anche se si poteva avere un parametro di confronto rispetto ai prezzi. La ringrazio intanto, beata lei, che è potuta già farsi questa bella vacanza, perché Paolo Corleoni, il mio regista di questa mattina, mi stava dicendo che per pura curiosità ha contattato lo stesso albergo in Grecia dove era stato l'anno scorso con la sua compagna, e per la verità gli hanno proposto dei prezzi in aumento. Roberto Corbella, presidente di ASTOI, l'Associazione dei Tour Operator Italiani. Questa è una cosa che mi incuriosisce molto, perché invece il pezzo del venerdì di Pubblica a cui mi riferivo prima traccia un quadro molto diverso rispetto a questa cosa che mi ha raccontato Paolo, che addirittura racconta che il prezzo di soggiorno in hotel e villaggi in Grecia è calato del 10, del 20 e talvolta anche del 30%. Le compagnie turistiche, leggo testualmente, cercano di evitare la diserzione di ospiti spaventati dai violenti scontri di Atene del maggio scorso e preoccupati di nuovi scioperi che potrebbero paralizzare i servizi traghetti aerei prima di tutto. Allora qua, come al solito, faremo la media di trilussa fra le dichiarazioni, la verità starà nel mezzo, fra chi si è trovato molto bene e chi invece addirittura, insomma, è spaventato da tutto quello che potrebbe accadere. Non accadrà un bel niente, però detto questo, qualche indicazione di buon senso, ma c'è qualche posto dove i prezzi sono correlati del 30% ed oltre, Presidente? Allora, sarei molto prudente. Intanto ovviamente ogni struttura ha le sue esigenze, le sue problematiche economiche. Le strutture più grosse, quelle che sono commercializzate da tutti i nostri tour operator, hanno un andamento più stabile, se passate il termine, è meno schizofrenico. Quindi i prezzi sono, come dicevo prima, in linea con quelli dell'anno scorso. Ci sono sempre delle offerte speciali per chi prenota prima, per chi prende i periodi più lunghi, eccetera, ma non cose così clamorose come questi abbattimenti del 30%. No, addirittura questo pezzo, sì, no, Presidente, lo racconto anche perché ha fatto anche, no, no, non sorridere, perché poi non che io non ci creda, ma addirittura leggevo adesso, se ritrovo quella parte, che addirittura ci sono centinaia di hotel in vendita perché non è più un'attività remunerativa per gli albergatori di alcuni posti, ma qui stiamo parlando di Rodi, di Creta, delle Cicladi. E quindi lei ha visto, sono uscite anche delle notizie sulla stampa dove si diceva che erano in vendita le isole della Grecia. Sì, infatti. Poi il Presidente del Consiglio greco ha smentito assolutamente questa voce, che per loro le isole sono una delle fonti di reddito primarie. Allora le notizie fanno presto a circolare e poi con il passaparola qualche volta vengono ingigantite. Non si può escludere che qualche struttura, come quella sentita dal vostro collaboratore, ha addirittura rivisti i prezzi di alza, perché magari ha una situazione di tutto pieno in quel periodo. Infatti. E quindi si può permettere questo lusso. Qualcun'altra invece che ha mal gestito la sua programmazione, che è arrivata a sconti significativi. La media del mercato, che direi che è quella che poi importa agli ascoltatori, non dà nessuno di questi due segnali, quindi, come dicevo, è in linea con l'anno scorso. Certamente, come ha detto anche l'ascoltatrice, queste isole vivono di turismo, la popolazione di isole come Mykonos, come Santorini, è praticamente tutta vocazione turistica, non c'è nessuno che direttamente o indirettamente non è coinvolto in queste attività, quindi primo farà l'impossibile per non fare scioperi, per dare la massima assistenza ai suoi clienti e per fare in modo che si possa avere la vacanza, per avere un passaparola positivo. Come dire, un'azione suicidia di paralizzare di nuovo paese in pieno agosto, credo che appunto neanche la Grecia abbia interesse a compierla. Elisabetta da Firenze, buongiorno. Buongiorno. Ci dica tutto. Salve, innanzitutto complimenti per la trasmissione, perché tratta sempre di argomenti molto interessanti. Benissimo, grazie. Allora guardi, la ringrazio e saluto, così approfitto, Sergio da Milano, che invece continua a scrivermi tutti i giorni che programmi noiosi come questo ce ne sono veramente pochi al mondo. Il mondo è bello perché è vario. Grazie Elisabetta. Ascolti, io ero interessata in particolare all'argomento traghetti. Sì. e eventualmente come fare a tenersi informati sull'evoluzione di eventuali scioperi traghetti dall'Italia. Sì, beh, allora intanto le ribadisco che c'è il sito del Ministero degli Esteri www.viaggiaresicuri.it, sì, che è un monitoraggio costante. Sul quadro proprio non di nicchia, specifico dei traghetti, sentiamo adesso se i miei interlocutori di questa mattina riescono anche a darmi un'indicazione su questo. Intanto torno a Ibiza da Fabio Cannavale, ma per farmi parlare della Grecia, il vostro osservatorio cosa dice rispetto a questa meta, Cannavale? Allora, sulla Grecia devo dire che concordo con quanto è stato detto a Corbella. Nei primi mesi le prenotazioni erano in linea, mentre in questi ultimi due mesi, come penso sia abbastanza logico per un motivo psicologico, le prenotazioni, la Grecia rappresentava l'anno scorso il 5-7% delle prenotazioni estive e sono scese al 4%, quindi effettivamente la gente va un po' meno in Grecia. I prezzi sono più o meno in linea con quelli dell'anno scorso, con un leggero calo. Anche qui continua il fenomeno dei voli low cost, le prenotazioni erano il 27% dei voli l'anno scorso era low cost ed era ancora molto forte la presenza dei charter. Quest'anno siamo al 50% di persone che vanno in Grecia in low cost. Quello che devo dire che assolutamente i nostri dati, visto che le destinazioni sono Mykonos, Rodi e Creta, sono le tre destinazioni che hanno addirittura superato Atene, la gente vola direttamente sulle isole. Fortunatamente ci sono tantissimi voli adesso diretti su tutte le isole per l'estate e quindi su questo sicuramente chi vola direttamente in una di queste isole, come abbiamo sentito dai vari ascoltatori che hanno chiamato, non ci sono problemi di scioperi, se non quando c'è un sciopero nazionale su tutta la Grecia. Che suggerimento possiamo dare ad Elisabetta, che vuole monitorare costantemente invece il trasporto, quindi il tema dei traghetti? Adesso non ci siamo fatti indicare il momento in cui avrebbe intenzione di partire o meno. Io gli ho dato l'indirizzo del Ministero degli Esteri, ma per esempio se una persona prenotasse con voi, con Vola Gratis, un pacchetto per stare in Grecia qualche giorno, Cannavale, e poi appunto magari, che ne so, i titoli dei giornali cominciano ad essere un po' più preoccupanti, ritorna uno sciopero improvvisamente, insomma si preannuncia da qualche giorno, può chiamare voi, come funziona, come monitorate poi anche la presenza sul territorio scelto per la vacanza delle famiglie? Allora, noi abbiamo un numero attivo 24 ore su 24, sabato e domenica, in cui le persone possono chiamarci e se no rispondiamo sempre. Inoltre c'è anche un servizio via email per chi vuole avere informazioni, ovviamente siamo sempre in contatto con tutti gli operatori e le compagnie. Quello che suggerisco, come dicevo prima, d'accordo con i colleghi che abbiamo sentito, che sicuramente in questo periodo un po' di turbamento, il fatto di poter avere o una tariffa flessibile, che finalmente sono possibili avere, o un'assicurazione, permette di evitare questi rischi. Mm-hmm. Corbella, lei ha un suggerimento sulla questione dei traghetti per la nostra ascoltatrice? Il mondo dei traghetti in Grecia è molto vario perché sono tante le compagnie che operano nelle varie isole, quindi è difficile generalizzare. Al di là dell'indicazione già fornita, quindi del sito della Farnesina per cose più globali o di sentire l'ente del turismo greco che ha i suoi uffici a Milano, consiglierei di sentire direttamente la singola compagnia che opera la tratta interessata. Questo se non ha comprato un pacchetto, perché se ha acquistato un pacchetto la cosa è più semplice, basta che si rivolge all'agenzia dove ha prenotato o al tour operator che gestisce il pacchetto ed è lui a rendersi garante delle soluzioni alternative. Teresa ci scrive: qui in Grecia le vacanze sono perfette, che dite, vergognoso dare notizie confuse e pettegolezzi. Infatti Teresa mi pare di aver organizzato una trasmissione che volesse in qualche maniera rassicurare chi ci ascolta. Detto questo però, siccome abbiamo visto nei mesi passati che qualche giornata di disagio pesante in Grecia c'è stata, e allora magari per chi si fosse un pochino spaventato rispetto a questo e stesse organizzando le sue vacanze per la Grecia, abbiamo voluto appunto dare tutte le indicazioni che sono necessarie anche per partire con la massima tranquillità. Chiaronzi adesso, Europe Assistance, torno da lei con la domanda di Francesca da Bergamo. Buongiorno Francesca. Sì, buongiorno. Io chiamo a proposito dei voli in Italia. Dovevo partire martedì per Lamezia accompagnando una persona anziana a causa del caldo. Sabato è stata poco bene. La compagnia low cost, posso dire il nome? Ma certo, Francesca. La Ryanair. Avevo chiesto di spostare il volo, si rifiuta di spostarlo e rimborso perché il giorno prima avevo stampato la carta d'imbarco e quindi, pur avendo fornito il certificato della persona, volevo segnalare la cosa per gli altri utenti. Grazie. Francesca, per radio. Sì, La ringrazio. Allora, adesso qui bisognerebbe avere anche un'associazione dei consumatori, perché io ritengo che ci siano comunque le condizioni per avere almeno, non dico un rimborso magari economico, ma magari avere un buono per un volo successivo, se proprio non si riesce a fare di meglio. Chiaronzi, ecco, situazioni di questo genere sono le tipiche situazioni che una polizza tutela, protegge? Assolutamente sì, questa è la classica situazione in cui un prodotto d'annullamento, appunto annullamento volo, avrebbe coperto, avrebbe rimborsato i costi del mancato adesso viaggio. Io capisco che lei lavora per la compagnia di assicurazione, non per la compagnia aerea. Come suggerisce di muoversi a Francesca? Insomma, deve ostinarsi, chiedere? Io credo che comunque un buon equivalente per un volo magari in un altro momento almeno glielo possano fare. Non vorrei sbilanciarmi in materie un po' complesse, nel senso che le polizze d'annullamento coprono proprio i danni diretti all'assicurato, quindi in questo caso io le posso dire una polizza d'annullamento l'avrebbe sicuramente coperta, non so quanto il vettore possa coprire situazioni di malattia improvvisa. Insomma, qualche volta Ryanair purtroppo ci ha stupito per rigidità e proprio non certo per flessibilità. Comunque, detto questo, poi magari ci documentiamo con un'associazione dei consumatori e cercheremo di dare una mano a Francesca. Chiaronzi, io vorrei magari chiudere con lei questa trasmissione, perché ci mancano ormai un paio di minuti di tempo, stiamo partendo in molti rinunceranno alle vacanze quest'anno per i consueti problemi economici di cui tanto parliamo, qualcuno farà delle vacanze ridotte, sceglierà delle mete italiane, perché sceglie invece delle mete un po' più lontane, anche se non è detto che poi scegliendo un posto italiano non ci si debba tutelare e proteggere. Detto questo, insomma, magari diamo le indicazioni più importanti in termini assicurativi per chi sta partendo e quindi da che cosa è bene assolutamente proteggersi e magari su quali punti invece possiamo magari fare una riflessione aggiuntiva. La prima cosa da fare innanzitutto è prendere maggiori informazioni possibili sulle mete, sulle destinazioni, e a tale proposito aggiungo una referenza a quelle citate prima, che è il nostro sito netglober.it, in cui i viaggiatori possono trovare tutte le informazioni riguardanti le condizioni dei singoli paesi con delle schede aggiornate, e possono lasciare commenti e quindi favorire così il passaparola su situazioni anche particolari che si possono individuare. Che è molto apprezzato, peraltro in genere addirittura ritenuto più credibile rispetto ad altre recensioni che possono essere definite o ritenuto più autorevoli. Questo passaparola fra utenti è sicuramente... Assolutamente sì, perché appunto anche in situazioni molto particolari un utente magari che è stato nel posto e che è rientrato può lasciare quindi un messaggio agli altri utenti e quindi favorire una conoscenza un po' più allargata. Dopodiché quindi andare a capire quindi com'è soprattutto la condizione sanitaria del paese che si va a visitare, quindi più le condizioni sanitarie sono disagiate e più è importante aumentare i limiti dei massimali di rimborso spese mediche sicuramente, e le coperture di assistenza. Queste sono ovviamente i due aspetti che riguardano un po' più la salute e quindi il buon esito eventuale della vacanza. Poi ovviamente c'è la possibilità di integrare con coperture come il bagaglio, coperture anche per esempio per chi rimane a casa. Questo è un altro passaggio importante, nel senso ogni volta che si viaggia si lascia qualcosa a casa, si lascia la propria abitazione, si possono lasciare anche i propri cari. Noi quest'anno per esempio siamo andati sul mercato con un prodotto che per, dedicato a chi viaggia, ma per proteggere anche la salute dei propri cari, magari genitori o nonni che rimangono a casa. È un mondo che si è importante. Grazie molto a Roberto Corbella, Fabio Cannavale, Valerio Chiaronzi per essere stati con noi questa mattina. Io vorrei chiudere salutando Daniela che ci scrive: disagi in Grecia, le morti durante la manifestazione di maggio, e da non dimenticare, Daniela ha ragione, noi ce lo ricordiamo molto bene, la banca è andata a fuoco, ha perso la vita anche una mamma che aspettava il suo bambino, ce lo ricordiamo benissimo. Proprio per questo abbiamo rivoluto organizzare questa trasmissione. Noi ovviamente quella situazione estrema speriamo di non doverla vedere mai più. Detto questo, proprio anche quella situazione molto drammatica di maggio ha generato le paure di cui stiamo parlando oggi. La situazione appare sotto controllo, tutti potranno andare in vacanza in Grecia, magari spuntando anche dei prezzi migliori rispetto all'anno scorso, o magari no. Detto questo, abbiamo ritenuto, anche per quello che lei ci ha ricordato, di dover rifare questa trasmissione anche come a scapito di tutti quelli invece che stanno dicendo che le vacanze sono perfette, che stiamo raccontando delle cose confuse e dei pettegolezzi. Che fatica anche stamattina. Comunque, buona giornata a tutti. Salva Danaio torna a lunedì perché domani c'è sciopero. Buona giornata a tutti.